Sedicesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, sedicesimo canto. Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeto, sotto pover cielo, quant'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fummo ch'ivi ci coperse, né a sentir di così aspro pelo che l'occhio stare aperto non sofferse, onde la scorta mia saputa e fida mi s'accostò e l'omero m'offerse. Sì come cieco va dietro a sua guida, per non smarrirsi e per non dar di cozzo in cosa che il molesti o forse ancida, m'andava io per l'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva pur guarda che da me tu non sia mozzo. Io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia l'agnel di Dio che le peccata leva. Pur Agnus Dei eran le loro essordia. Una parola in tutte era e un modo, sì che parea tra esse ogni concordia. Quei sono spirti, maestro, chi odo? Dissi io, ed egli a me, tu vero apprendi, e di racundia van solvendo il nodo. Or tu chi sè che il nostro fummo fendi, e di noi parli pur come se tue partissi ancor lo tempo per calendi? Così per una voce detto fue, onde il maestro mio disse, rispondi, e domanda se quinci si va sue. E io, o creatura che ti mondi per tornar bella a colui che ti fece, maraviglia udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lece, rispose, e se veder fummo non lascia, l'udir ci terrà giunti in quella vece. Allora incominciai con quella fascia che la morte dissolve men vossuso, e venni qui per l'infernale ambascia, e se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol chi veggia la sua corte, per modo tutto fuor del moderno uso, non mi celar chi fosti anzi la morte, ma dilmi e dimmi si vo bene al varco, e tue parole fier le nostre scorte. Lombardo fui e fu chiamato Marco, del mondo seppi e quel valore amai al quale a or ciascun disteso l'arco, per montar su dirittamente vai. Così rispuose e soggiunse, i ti prego che per me prieghi quando su sarai. E io a lui, per fede mi ti lego di far ciò che mi chiedi, ma io scoppio dentro ad un dubbio, s'io non me ne spiego. Prima era scempio, e ora è fatto doppio, nella sentenza tua, che mi fa certo, qui e altrove, quello ov'io l'accoppio. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogne virtute, come tu mi sone, e di malizia gravido e coverto, ma priego che m'addite la cagione, sì chi la veggia e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un quaggiù la pone. Alto sospir che duolo strinse in ui, mise fuor prima, e poi cominciò, frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete ogni cagion recate, pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio, e non fora giustizia per ben letizia e per male aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto chi il dica, lume v'è dato a bene e a malizia, e libero voler, che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto, se ben si notrica. A maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che il ciel non ha in sua cura. Però, se il mondo presente disvia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò or vera spia. Esce di mano a lui che la vagheggia, prima che sia a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia. L'anima semplicetta che sa nulla, salvo che, mossa da lieto fattore, volentier torna a ciò che la trastulla. Di picciol bene in prima sente sapore, quivi s'inganna e dietro ad esso corre, se guida o fren non torce suo amore, onde convenne legge per fren porre. Convenne rege aver che discernesse della vera cittade almen la torre. Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo, però che il pastor che procede rugumar può, ma non ha l'unghie fesse. Perché la gente che sua guida vede pura quel ben fedire ond'ella è ghiotta, di quel si pasce e più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo, e non natura che in voi sia corrotta. Soleva Roma, che il buon mondo feo, due soli aver, che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada col pasturale, e l'un con l'altro insieme, per viva forza, mal convien che vada, però che, giunti, l'un l'altro non teme. Se non mi credi, pon mente alla spiga, ch'ogni erba si conosce per lo seme. In sul paese, cadice e po riga, solea valore e cortesia trovarsi, prima che Federigo avesse briga. Or può sicuramente indi passarsi, per qualunque lasciasse, per vergogna di ragionar coi buoni o d'appressarsi. Ben ven tre vecchi ancora in cui rampogna l'antica età la nova, e par lor tardo che Dio a miglior vita li ripogna. Currado da palazzo e il buon Gherardo, e Guido da Castel, che mei si noma, francescamente il semplice Lombardo. Dio oggimai che la chiesa di Roma, per confondere in sé due reggimenti, cade nel fango, e s'è brutta e la soma. O Marco mio, diss'io, bene argomenti, e or discerno perché dal retaggio li figli di Levi furono essenti. Ma qual Gherardo è quel che tu per saggio di che è rimaso della gente spenta in rimprovero del secol selvaggio? O tuo parlar mi inganna o el mi tenta, rispuose a me, che parlandomi tosco par che del buon Gherardo nulla senta. Per altro soprannome io non il conosco, s'io non togliessi da sua figlia Gaia. Dio sia con voi, che più non vegno vosco. Vedi l'albor che per lo fummo raia già biancheggiare, e me convien partirmi. L'angelo è ivi prima ch'io li paia. Così tornò e più non volle udirmi. Fine del 16° canto del Purgatorio.